identità. Tutti intorno a me, compreso te, fanno di tutto per fiaccare la mia volontà. L'alta pressione mistura le vene e sale e sale vai andando tutta la città, portando via con sé le scartoffie dei notai dell'astronautica, scritta sulla tua dai fondi della spesa. Mai fatta spalanca, numeri, fondi su grandi vuoti, veri demotivati, poi dai fondi di lattine ritrovati. Momento flu, a testa in giù. Momento flu. tasca a passare la testa e non guardarsi mai in